A questo punto io, se loro consentono, darei la parola al professor Alfred Sternat per la prolusione. Autorità, gentili signore e signori, prima di cominciare con la mia prolusione annunciata, vorrei esprimere la mia fervida gratitudine alla provincia autonoma di Trento, al comune di Trento e il signor sindaco per l'invito a questo incontro di studio. Inoltre, sono molto grati per la sua consueta accoglienza e il suo fervido aiuto il reverendissimo Monsignore Professore Iginio Roccia, ideatore e animatore di questo incontro. Last but not least, vorrei ringraziare il personale dell'Archivio di Stato, della Biblioteca Comunale e del Museo Provinciale d'Arte, tutti a Trento, per la gentile assistenza datami ai miei studi sul tema personalità, famiglia, carriera ecclesiastica di Giovanni Hindebach prima del Vescovato. La nazione tedesca ti è molto grata, Santo Padre, poiché tu con il tuo insegnamento e il tuo esempio l'hai condotta all'antico splendore dell'eloquenza latina e agli studi umanistici, attraverso i quali essa progredirà giorno per giorno e si rafforzerà. Colui che a Siena, nel marzo 1459, rese omaggio con queste parole all'umanista Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, da poco eletto pontefice, non si espresse in tal modo solo in quanto portavoce ufficiale della legazione imperiale venuta a prestare voto di obbedienza al pontefice, lo fece piuttosto quale buon conoscente di lunga data di quello che era stato il preceptor nationis permanens. Nel suo esordio, Giovanni Hindebach, oggetto di questa prolusione, rammentava l'affettuoso legame d'amicizia che datava ancora dai tempi della comune presenza nella corte e nella cancelleria dell'imperatore Federico III. Quello raggiunge il suo apice nel 1455 in occasione del giuramento di obbedienza che ambedue prestarono a Papa Callisto III, diretto predecessore di Pio II. In quel caso il ruolo di portavoce imperiale era invece toccato al eloquentissimo senese. Anticipando diremo che l'assiano Johannes Hindebach, che celebrò in forma tanto entusiastica i meriti del neoeletto Papa nel ridestare a nord delle Alpi la cultura degli antichi, in realtà non era un umanista nel senso del termine umanista nato nell'ambiente universitario per indicare l'insegnante di studia humanitatis per professione. Tuttavia, egli, come taluni suoi contemporanei era pervaso di quella nuova esigenza culturale dell'umanesimo rinascimentale, che si basava sul concetto degli studia humanitatis, mutato da Cicerone. Secondo un elenco di Tommaso Parentucelli, più tardi Papa Niccolò V, ad essa appartenevano notoriamente tanto la grammatica e la retorica, quanto la poesia, la filosofia morale e la storia. Il loro scopo finale consisteva però, per Leonardo Bruni, nel perfezionare l'uomo, nell'abilirne lo spirito, propteria humanitatis studia nuncubantur, quod hominem perficiant atque ex ornent. Secondo un uso tipico degli umanisti, il Hindenburg non solamente confrontava Pio II con i grandi dell'antichità classica, primi fra questi Cicerone e Seneca, ma ancor più rammentava al Papa, che aveva fatto carriera, come noto, in campo diplomatico, i suoi rapporti con significative personalità del suo tempo, tra le quali i cardinali Albergati, Cesarini e Cabranica, considerati uomini politici della Chiesa. Essi avevano notato un'impronta davvero accessiva alla carriera dell'attuale pontefice che l'imperatore allora in un singolare atto avrebbe coronato come poeta laureatus. Ovunque nell'impero, in tutte le scuole e nelle sedi di studio si manifesta, continua il Hindenburg, il potente influsso del Papa Piccolomini, tanto più che questi ha assunto un ruolo determinante in Germania per ciò che concerne la diffusione della stilistica e della retorica latina. Ruolo del tutto simile a quello dell'umanista bizantino Manuele Crisolara nel riportare la crescita in Italia. Giovanni Hindenburg sapeva bene con ciò di esagerare notevolmente, dato che egli stesso aveva compiuto i propri studi accademici in un'università molto tradizionale. L'Università di Vienna, permeata di spirito nominalistico tardo-scolastico, ove, come ha dimostrato mio maestro viennese Alfons Lotzky, troppo volentieri si prendeva a prestito una maschera, oggi si svolgeva in un mantello per sembrare diversi comunque sia moderni. In questa alma mater egli si era guadagnato nel 1437 il baccalaureato artistico, l'anno successivo aveva tenuto la consueta determinatio in artibus e un anno più tardi lo si ritrova fra i docenti della facoltà artistica in qualità di magister artium. Qui era stato assegnato il compito di tenere delle lezioni sulla base del secondo libro di Grecismo, quel manuale in versi di Eberardo di Bethune, che era ancora spesso prescelto quale strumento per lo studio della grammatica latina. Nel 1439, tuttavia, il Hindenburg passò alla facoltà di giurisprudenza, alla quale appartenne per 2 anni fino al 1441, quale studente di diritto canonico. Come ricorda egli stesso più volte, e più tardi in un foglio volante inserito nel manoscritto 1560 della Biblioteca Comunale di Trento. Questo consente comunque di ricostruire con discreta esattezza il suo curriculum studiorum. Senza difficoltà se ne può ricavare che anche egli rappresentava quel genere d'uomo sempre più frequente a trovarsi nel 400 che aspirava a concludere gli studi artistici solamente per entrare più rapidamente in una facoltà superiore e quindi poter seguire nella vita professionale una carriera non comune. In un'epoca di grande possibilità di ascesa per il singolo al servizio di principe o dello Stato, l'insegnamento accademico cominciava a perdere sensibilmente la propria capacità attrattiva. Ciò si palesa anche in quell'uomo che, come egli stesso ebbe a vantarsi più volte, era imparentato per parte di madre con Heinrich von Langenstein, l'illustre teologo appartenente al clero secolare celebrato come Doctor Conscientiosus. Notoriamente questi era stato chiamato da Parigi per essere tra i fondatori della facoltà di teologia a Vienna e per riorganizzare sul modello parigino l'attività accademica di questa università, alla quale procuro stima e considerazioni in ambito europeo. Un'annotazione del Hindenburg in tal senso, contenuto in un manoscritto dell'allora Biblioteca Vescovile, conservato oggi nella Biblioteca Comunale di Trento, e del quale si può aver visione nella mostra che si inaugura domani pomeriggio al Castello del Buon Consiglio, si presenta al tempo stesso una difficoltosa interpretazione. Senza dubbio, oggi potrebbe essere accertata la discendenza di quel teologo, impegnato anche quale politico della Chiesa e del Concilio, da una stimata famiglia Langenstein, decaduta ed impoverita in un piccolo paese in Asia, non lontano da Marburg. A favore di un'origine spesso ritenuta nobile, non si possono addurre ad oggi prove convincenti. Tanto più che l'espressione usata da Hindenburg in riferimento a ciò, ossia nobile patre quamquam admodum paupero genitus, non la presuppone necessariamente. Ma non vi erano legami familiari solamente con la famiglia Langenstein, che oltre al celebro corifeo teologico contava altri due docenti universitari viennesi, nipoti di Heinrich, i fratelli Paul e Andreas di Langenstein. Anche il conterraneo Hermann Lelle von Traisa, un piccolo luogo situato nel distretto di Ziegenhain in Hassia, che in qualità di baccalaureo in medicina venne chiamato da Parigi a Vienna nel 1384 da Heinrich von Langenstein, viene celebrato da Hindenburg come uno de genere nostro. E questo a buon diritto. Poiché un'interpretazione delle numerose, anche personalissime annotazioni contenute nei suoi breviari, missali e calendari liturgici, da lui fittamente glossati, di cui alcuni ci sono giunte solo in copie più tardive, dimostra che anche Hermann Lelle fu un nipote di Langenstein, tanto più che la madre di lui, della quale non si conosce il nome, venne chiamato Sora Henrici, quindi sorella del medesimo Heinrich von Langenstein. Come decano di medicina, più volte rettore magnifico dell'Università di Vienna, questo maestro di medicina, professore in medicina, lehrer in der Arznei, che fu coautore della forma finale degli statuti di facoltà, ricoprì un ruolo decisivo nella vita accademica. proprio il suo legato testamentario doveva essere determinante per individuare la sua stirpe. Aliace materiale provvedeva la casa nel Hintern Schulstraße, non poco lontano della chiesa centrale di Vienna di Santo Stefano, da lui ricostruita, nonché alcuni vigneti che dopo la morte di Hermann finirono ai nipoti Dietmar e Konrad Hinderbach. Per l'apertura intellettuale dei due sarebbe stata decisiva e indicativa per il futuro l'assegnazione testamentaria di tutti i libri di Hermann, ad esclusione di quelle da lui dedicate al Collegium Ducale e al capitolo della Collegiata di Santo Stefano in Vienna. Tale assegnazione era avvenuta con l'espresso divieto di ripartire i testi, il che autorizza a supporre che Johannes Hinderbach ed i suoi fratelli ne fossero stati egualmente partecipi. A buon diritto dunque costui commemora sempre rispettosamente Hermann Lelle, cuius ego vobe pietate ad bonarum artium studium adductus, in eum quem de miseratione adeptusum gradum et fortunam perveni. Quali dies nativitatis mee, il Hinderbach cita più volte la festività dell'Assunzione di Maria, il 15 agosto 1418, allorché egli venne alla luce nella cittadina di Rauschenberg, non lontano da Marburg nell'Assia Superiore. Quest'area si trova allora nella giurisdizione dei conti di Ziegenhain e passò in seguito ai Landgravi d'Assia. Da un attestato della sua nascita legittima, custodita oggi nell'archivio di Stato di Trento, redatto per mano della vedova dell'ultimo conte di Ziegenhain, la contessa Elisabeth von Waldeck, veniamo a conoscenza dei nomi dei suoi genitori, lo scabino Johannes Scheib e la sua consorte Immel Hinderbach. Lo trovo tutte indicazioni su questo elenco nella busta del contessa. Grazie alla rettifica paleografica del nome di battesimo della madre, in precedenza letto Inrael, è ora possibile creare un legame con quell'annotazione che Hinderbach scrisse di proprio pugno e che si trova nel calendario custodito in questa biblioteca comunale. Vi si trova annotato infatti alla data del 27 luglio 1429 dies obitus emiludis matris. Immeln risulta dunque essere una forma vezzeggiativa del nome Emelud, anche Almudis, frequente in Assia fino alla Riformazione. Forma del nome di una delle due principesse scozzesi che la leggenda voleva per fondatrici del convento delle canonichesse di Vetta in Assia Superiore presso Marburg. Da questa annotazione e da altre consimile veniamo a sapere da Hinderbach stesso che egli perse i suoi genitori in tenera età. Il padre morì nel 1428, quando il ragazzo non aveva ancora 10 anni, e la madre solo un anno dopo. Dato che possiamo solo supporre che una Cecilia, della cui morte nel 1432 siamo a conoscenza, fosse una sorella del futuro principe vescovo, rimangono quindi per certi solamente due fratelli suoi. Uno di questi è Enrico Heinrich, anche Enze, fu da primo che rimase laico, si sposò e fu da prima tesoriere comunale a Vienna e successivamente fiscale imperiale ufficiale a Klosterneuburg. Insieme ad altri imperiali, ossia cittadini, consiglieri comunali viennesi che partecipavano per l'imperatore Federico III, nel 1462 Enrico cadde prigioniere del partito rivoluzionario che difendeva i del fratello minore dell'imperatore, ma riuscì a sottrarsi con una pronta fuga. Per ultima volta lo si trova citato in un documento il 10 gennaio 1492, tuttavia la data della sua morte non è certa. L'altro fratello è Corrado, detto anche Kurt Hinderbach, il più giovane delle tre. Era venuto alla luce il 30 novembre 1427. Aveva scelto la carriera ecclesiastica e nel periodo di Quaresima del 1459 era stato ordinato diacono. In tale occasione egli venne indicato come rector ecclesiae parrocalis di Kirchberg am Wagram in Austria Inferiore. Canonico a Passau ottenne nel 1470, non senza l'intervento di suo fratello, salito nel frattempo alla carica vescovile e per il quale egli svolse degli incarichi, ottenne un canonicato nel capitolo trentino. E in più il beneficio parrocchiale di Tassulo in Val di Non, che fruttava 10 marchi d'argento. A questo egli rinunciò già nell'autunno nel 1472, allorché in virtù di una provvigione papale entrò in possesso della prepositura di San Vittore extramuros a Magonza, che detenne fino al 1488. Nel maggio del 1480 egli è menzionato come vicario generale del suo fratello a Trento. Anche per lui non vi è finora certezza sulla data della sua morte. I nonni materni dei tre fratelli Hinderbach, divenuto orfani in giovane età, li adottarono in veste di genitori, li trasferirono con loro a Vienna e curarono delle loro educazioni. Erano Hedwig, sorella del citato professore viennese di medicina, Hermann Lelle von Kreiser, e suo marito, un certo Konrad Hinderbach. Questi potrebbe aver predisposto l'adozione dei tre nipotini, cosicché troverebbe una spiegazione plausibile il fatto che essi portassero il cognome della madre. Hinderbach. Johannes, li ricordo con grande rispetto nelle sue annotazioni su questo tema, trasmettendoci così anche la data della loro morte. Il 5 giugno, per il suo patrus ed anche avus nostra maternus, e l'8 settembre per l'avia nostra Hedwig, che in un'occasione, per le sue attenzioni materne nei suoi confronti personali, veni chiamata Mata mia. Così che ha portato poi ad una grande confusione. Nell'indicazione del rispettivo anno di morte, egli stesso non era più certo. Al riguardo si riporta del nonno che che Elisareppe viene apud Sanctum Stephanum sepultus, dunque inumato in un luogo che già dalla morte di Heinrich von Langenstein nel 1397 era diventato il sepolcro degli appartenenti alla consorteria Langenstein-Lelle-Hinderbach dei Fonti a Vienna. Per la successiva educazione dei tre fratelli, ma anche per il loro futuro professionale, furono di gran lunga più importanti i già citati zii, anch'essi operanti a Vienna, ossia i fratelli carnali della madre morta in giovane età. Per la loro educazione e formazione intellettuale si era preso particolare cura un tempo Hermann Lelle, come abbiamo già visto. Dietmar e Konrad Hinderbach di Kirchhain in Assia sono stati immatricolati all'Università Viennese nell'anno accademico 1406-1407, sotto il rettorato del suo zio Hermann Lelle, quali appartenenti alla nazione renana. Essi versarono la normale tassa di iscrizione, che ammontava allora a 2 groschen braghesi. Ciò dimostra che in questo caso non si applicò l'altrimenti consueta esenzione dalle tasse universitarie per figli o parenti di professori. In rapida successione, il più vecchio, Dietmar, ottenne il magistero artistico e poi il baccalaureato in medicina. Tre anni tardi si guadagnò il grado di dottore in medicina e già nel 1429 ricoprì la carica di decano in quella facoltà. In quanto docente dotato e stimato, che detenne il rettorato anche 3 volte e li giunse presto a tale considerazione che le rese noto e apprezzato per le sue eminenti cognizioni e capacità oltre i confini del paese. Disponeva anche di una considerevole entrata, tanto più che, a prescindere dai benefici e dai favori, non era solo parroco di Kirchberg in Austria Inferiore, ma anche membro prebendato del capitolo del Duomo di Passau. Inoltre si afferma nel servizio sia presso l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo e sia l'Asburgo Federico III. Quanto quest'ultimo lo apprezzasse è dimostrato tra l'altro dal diploma di familiarità e di servizio rilasciatogli. L'8 giugno 1443 a Vienna, questo diploma includeva numerosi privilegi, tra i quali quello di portare uno stemma. L'originale si trova nell'archivio di Stato di Trento. Poco prima della sua morte, avvenuta a Vienna il 1 luglio 1453, Dietmar Hinderbach lasciò in eredità a quelli che lui chiama i suoi cugini la casa di sua proprietà a Vienna, di cui già si è detto insieme ai 3 vigneti. In tal modo pervenne ad esse anche l'eredità di Hermann Lelle, come quest'ultimo Dietmar trovò la sua ultima dimora nel coro della chiesa di Santo Stefano ante altare San Floriani, ubi alii consanguinei nostri sunt sepolti, come annotò il solerte nipote. Il più giovane dei due, Konrad Hinderbach, immatricolato nello stesso anno all'università insieme con suo fratello Dietmar, 1406, aveva ricevuto nel 1421 l'ordinazione a subdiacono e un anno più tardi quello a diacono. Di lì A breve era entrato in possesso della parrocchia di Ips, in Austria Inferiore, che egli detenne comunque fino alla fine dei suoi giorni. Come tale compare in occasione dell'insediamento a canonico del capitolo viennese di ogni santo Santo Stefano, avvenuta in marzo 1439. Oltre a ciò, deve essere stato anche canonico e decano della collegiata di Santa Margherita in Ardaca, in Austria Inferiore. Stendo alla memoria necrologica di suo nipote, Conrad o Corrado, che non ottenne mai un grado accademico. Sarebbe deceduto l'8 aprile 1442 a Vienna. Anche egli venne collocato nel tradizionale luogo di sepoltura della famiglia. Proprio sotto il primo rettorato del Avunculus Dietmar Hinderbach, il più vecchio dei tre fratelli, ossia Johannes Hinderbach, Giovanni Hinderbach, era entrato all'Università di Vienna nel semestre invernale 1434, quale appartenente alla nazione renana. Egli versò al atto dell'immatricolazione una tassa di 4 groschen braghesi, il che fa pensare ad un'elevata posizione sociale della sua famiglia. 7 anni dopo, nel 1441, Lassiano, divenuto nel frattempo magister artium ed esperto dei fondamenti della giurisprudenza, lasciò Vienna per andare a concludere i propri studi di diritto canonico presso il celebre Studium di Padova, poiché in quella sede insegnavano esperti di fama mondiale, non solo in medicina, ma anche in diritto canonico e civile. In questa università padovana si è segnato presente per la prima volta il 24 marzo 1442, in occasione del conferimento del dottorato artistico a un magistro viennese, da parte del docente di diritto Antonio Rosselli da Arezzo, celebrato quale Iuris Utriusque Monacha. Questo stimato giurista antipapale, le cui lezioni erano state frequentate anche dal giovane Enea Silvio Piccolomini, a Siena, succedette nell'insanimento a Padova già dal 1438 al famoso canonista Prostocimo Conti, insieme a maestri di diritto come Angelo da Castro o Leonardo Pazzoli, Rosselli divenne per il Hinderbach il vero e il proprio mentore e maestro accademico. Di lui, come preceptor meus, quindi si ricorda anche una disputa o repetitio che presenta un eccellente quadro del suo curriculum studiorum, tenuta davanti il vescovo di Padova, Pietro Donati, in qualità di cancelliere del studio, menzionandolo con il massimo ossequio unitamente all'insigne canonista Giacomo Zoppi. Sub quorum ego juris consultissimus, doctrina et huius quidem ordinaria, istius vera extraordinaria, quantum hic loci eo in jure versatus, sum semper meditavi. Con quale fervore Hinderbach si dedicasse agli studi di giurisprudenza a Padova, e testimoniata tra i trattati di diritto e dagli appunti delle lezioni di questo studioso padovano, scritti di suo pugno, approdati per un caso fortunato dell'antica biblioteca dei principi vescovo alla biblioteca comunale in Trento. Solamente in due altri casi Giovanni Hinderbach compare quali juris utriusque scholaris nel settembre 1447 a Padova. Soltanto un decennio dopo l'inizio dei suoi studi in quella università, e li poté ricevere il 14 gennaio 1452 in Die Felicis Confessoris, il dottorato in Decretis. Come da lui stesso annotato, non senza giustificativo orgoglio. Ciò avvenne in modo particolarmente festoso nel coro della cattedrale di Padova e alla presenza dell'imperatore Federico III in viaggio verso Roma, il quale, come letteralmente riportato nel fastoso diploma di laurea custodito anche nell'archivio di Stato di Trento, ad accipiendum sacratissimi Romani imperii coronam et sceptrum urbem versus accederet, hunc insignem virum, iam pridem in secretarium suum electum secum duxit. In precedenza, nel Palazzo Vescovile ed innanzi al Collegio dei Dottori riuniti, il Hindebach si era sottoposto con molto successo al previsto esame di disputa della tesi. Così che poté ricevere le insegne del grado accademico dalle mani del suo maestro universitario Antonio Rosello. Con i suoi lunghi anni di intenso studio, prima a Vienna, poi a Padova, il Hindebach senza dubbio si era guadagnato questo onore, poiché la cerimonia avvenne alla presenza di numerose grosse personalità, sia dello stato religioso che dello stato secolare. Egli non rientrava, certo, fra quelle persone delle quali in un'occasione Enea Silvio ebbe a dire che multos silicet doctores Caesar in Italia promovit, quibus aurum prosciencia fuit. Se dunque Federico III era presente di persona a questa laurea, siamo autorizzati a considerare tale fatto come un segno evidente della particolare considerazione che egli aveva per il suo ambasciatore e segretario prescelto. Intorno al Capodanno 1448-49, Giovanni Hindebach si trovò per la prima volta come delegato dell'impero a Milano, insieme il suo compatriota Magister Hartung Molitoris, che dai suoi contemporanei era giudicato vir doctus et per benignus. Compito di ambedue era quello di tutelare in quella sede i diritti dell'impero rimasti vacanti in seguito alla morte senza eredi legittimi dell'ultimo duca della casa Visconti. Era un'impresa davvero difficile e non può stupire il fatto che essa fallì. Tuttavia, la circostanza che al Hindebach, occupato in quel periodo a Padova dalla conclusione dei suoi studi giuridici, fosse stata affidata questa delicata missione, mostra da un lato quali grandi aspettative fossero riposte nella sua persona, ma permette insieme di riconoscere quanto fosse influente di fatto era la consorteria assiana alla corte asburgica. Senz'altro fu questa, e non già l'amicizia col Piccolomini, frequentemente esaltato della letteratura precedente, quale caldo sostenitore del Hindebach, a indirizzare la sua carriera e a portarla a sempre maggior successo. Al suo influsso e da ascrivere quindi il fatto che Giovanni appartenne per oltre 15 anni alla Cancelleria Imperiale e che in questo periodo fu impiegato molte volte in missioni diplomatiche, anche presso la Curia Papale. Secondo il biografo tedesco di Pio II, Georg Voigt, quest'uomo nato in Assia ma cresciuto a Vienna può essere annoverato tra i compagni di lavoro, Geschäftsfreunde, dice Voigt, di Enea Silvio. Bisogna però tener conto del fatto che la cordiale simpatia reciproca nacque solamente quando Hindebach aveva già fatto strada e poteva essere quindi solamente d'aiuto alla carriera del senese. Che egli non la pensasse diversamente lo dimostrano da un lato le lodi davvero entusiastiche e perciò vistose. Dall'altro, l'atteggiamento piuttosto freddo e distante nei suoi confronti dopo la elezione papale del 1458. Comprensibilmente l'ambizioso Hindebach si era atteso molto, anche troppo, da questa conoscenza e vi aveva riposto grandi aspettative. Tuttavia, simili speranze avrebbero dovuto eventualmente realizzarsi, semmai solo molto più tardi, come nel caso della sua promozione vescovile. Si comprende quindi l'amarezza a stento soffocata con la quale in Hindebach, in una glossa a margine di uno dei suoi manoscritti di sua proprietà, contenenti opere del Papa allora in carica, tratteggia il suo rapporto con quest'ultimo. In essa egli si lamenta in modo piuttosto aperto e franco di Enea Silvio, che lo avrebbe fronteggiato in papatu parum gratus et beneficus. Benché egli avesse avuto maggior occasioni per un atteggiamento ben diverso. Poiché non sine mea opera et labore egli avrebbe ottenuto il cardinalato da Calisso III con così poco sforzo, ex Caesaris tamen iussione ac intercessione. Certamente da più di un punto di vista Enea Silvio necessitò dell'aiuto e del sostegno materiale del Hindebach, almeno fin tanto che egli rimase in minoribus alla corte asburgica. Tale aiuto gli venne sempre concesso dovunque egli ne avesse bisogno, sia in ambito ufficiale, nei ruoli della cancelleria imperiale o degli incarichi diplomatici, sia in occasioni private e strettamente personali. Sappiamo infatti che Piccolomini nel corso della sua vita ebbe scarsa padronanza della lingua tedesca, cosicché egli a suo stesso dire nel 1446 poté intrattenersi a Würzburg con una signora solamente partim per me, partim per interprete. I testi in lingua volgare perciò e tra questi gli estratti e riassunti della österreichische Landesgeschichte, erroneamente definita Cronica delle 95 Signorie, non poterono essere tradotti in latino da altri se non da Giovanni Hindebach. Per entrare così nella trattazione storica di Enea Silvio. Per tale via deve aver cominciato a delinearsi un rapporto migliore tra i due, forse da loro perfino amichevole, perciò l'imperatore Federico vide nel Hindebach il prosecutore più adatto della Historia Australis, essendo questo il titolo più corretto della cosiddetta Historia Federici Terzi Imperatoris di Enea Silvio. Nella sua forma attuale, questa storia è comunque frammentaria. Non sappiamo neppure come fosse stata concepita effettivamente questa prosecuzione, essendoci pervenute solamente due esposizioni frammentarie dagli avvenimenti dell'anno 1460 e dei mesi turbolenti tra l'agosto e dicembre 1462. Proprio questi ultimi dovrebbero tuttavia destare un particolare interesse a causa dell'assedio ivo descritto dell'imperatore, della sua famiglia nella Hofburg a Vienna e delle conseguenze derivatene. Da appunti autobiografici sappiamo infatti che quei mesi rappresentarono anche per il Hindenbach un periodo di gravi disagi e perduranti ristrettezze, tanto più che egli, trovandosi al di fuori della Hofburg, dovette rimanere in città nascosto agli occhi di rivoltosi. In tali circostanze, prescindendo dagli oggetti di valore e dagli averi personali, egli perse un gran parte dei propri scritti e dei propri libri. Molto andò perduto, si sparse ai quattro venti, una circostanza della quale oggi molti ci rammarichiamo. In conseguenza di tale fatte, le nostre conoscenze sull'opera letteraria del Hindenbach sono estremamente carenti, prescindendo dalle sopracitate annotazioni per una continuazione dell'esposizione storica del proprio tempo, iniziata da Enea Silvio, conosciamo solamente versi lettere, ma piuttosto numerose annotazioni e glosse d'argomento grammaticale, filologico, storico, mitologico, naturalmente liturgico, archeografico. Si trovano tanto i manoscritti che in incunaboli, facenti parte del suo patrimonio letterario, e nel loro insieme sarebbero ancora da raccogliere e da valorizzare. Il quadro che ne ricaviamo è quello di un erudito di vecchio stampo, solerte ed operoso, non certo di un umanista. A buon diritto, Johannes Hindenbach si definì dunque rerum vetustarum studiosus. Non dovrebbe essere sgradito quindi un sguardo conclusivo sulla sua carriera prevescovile, poiché in tal modo vorrebbe chiarita la sua posizione economica. È stata appena menzionata la sua vantaggiosa posizione di partenza in ragione della considerevole eredità dei parenti in linea materna a lui trasmessa. Si potrebbe in tal modo comprendere meglio la provenienza dei mezzi finanziari necessari per un hobby così dispendioso come era allora l'acquisto di manoscritti e di opere a stampa. Poco dopo la sua entrata nella cancelleria imperiale, dove suo diretto superiore in qualità di protonotare fu Ulrich Sonnenberger, futuro vescovo di Gurk, Giovanni Hindenbach entrò in possesso anche della sua prima prebenda parrocchiale fissa, che rimase anche l'unica. Si trattava della ben dotata parrocchia di Mödling, situata a sud di Vienna, in mezzo ai vigneti, che si era resa vacante in seguito alla morte avvenuta a Foligno durante la peste nel luglio 1449 dell'abbreviatore papale, il magister Nikolaus Vollrath. Hindenbach l'aveva ottenuto grazie ad un indulto papale tramite il vescovo di Chiemsee, cancelliere austriaco, e ne dovette supplicare perciò il riconoscimento da parte del Papa il 17 dicembre 1449. Per ben 17 anni, fino dopo la sua nomina a vescovo di Trento, Hindenbach detenne questa parrocchia in Austria Inferiore, tuttavia egli non la considerò esclusivamente come una gradita fonte di entrate senza altri doveri, come accadeva frequentemente allora. A seguito del conferimento, egli si fece presto ordinare sacerdote, come era previsto dal diritto canonico. Il 7 settembre 1450, dato che egli registrò sempre nei suoi calendari liturgici, celebrò a Mödling la prima messa primizie, avvenimenti allora certamente non inconsueto. Ma comunque non di tutti i giorni. In un'epoca di grandi possibilità di carriera al servizio dei principi, accadeva solo di rado che egli appartenente alla cancelleria di Stato, ossia i clerks, prendessero più che gli ordini minori, assolutamente intensibile per l'ottimento delle prebende. Non lo facevano per nulla o solo esitando e con considerevole ritardo. Nel caso in cui il favore dei superiori procurano loro un seggio vescovile e si doveva quindi ottenere la convalida papale. Abilmente, con notevole zelo, si solevano accumulare invece prebende su prebende e si incassano da questa la maggior parte delle entrate, spesso rispettabile, mentre vicari mal pagati e scarsamente istruiti, i cosiddetti Leutpriester di pessima fama, provvedevano a malpena alle necessità pastorali e alle richieste dei fedeli. Il Hinderbach si impegnò a non limitare un simile esempio. Quale profonda impressione avessero destato questi sforzi nei fedeli, lo dimostrò anche la circostanza in cui Johannes, dal futuro sindaco della residenza di Wiener Neustadt, città nuova, Heinrich Kornmess, ricevette in dono in occasione della sua prima messa un libretto che egli tenne in grandissimo conto per tutta la sua vita e un opuscolum de actione missarum, munita di una sua annotazione autografa che ancora oggi si conserva nella Biblioteca Comunale di Trento. Sebbene anche Giovanni Hinderbach, seguendo lo spirito del tempo, non si lasciasse fuggire occasione, soprattutto nelle numerose legazioni alla corte papale, per farsi assegnare ulteriori benefici o aspettanze di prebende, tuttavia si fa notare la circostanza che tra queste non si trovava alcuna altra prebenda con espresso obbligo di cura d'anime. Nel novembre 1455 egli, laureato nel frattempo decretorum doctor, si fece dotare da Papa Niccolò V di un canonicato con prebenda nel capitolo del Duomo di Passau. Si erano resi vacanti a seguito della avvenuta promozione del protonotaro Sonnenberger alla diocesi di Gurk. Accanto alla sua dispensa concessa quasi contemporaneamente a causa dell'incompatibilità delle due prebende, Giovanni seppe procurarsi in tale occasione una riserva papale per altri due benefici nell'ambito dell'arcivescovato di Salisburgo. Un ulteriore passo in questa direzione riuscì circa due anni più tardi. In occasione del giuramento di obbedienza da parte dell'imperatore Federico III, il nuovo Papa Callisto III, il 5 ottobre 1455, assegnò al Hinderbach la propositura di San Apollinare, vacante per la morte del polacco Stanislaus di Zobniow, che nel 1426 era stata elevata da Papa Martino V a seconda dignità nel capitolo del Duomo Tridentino. Siccome l'ex abate benedettino di San Lorenzo, un tempo vescovo eugeniano di Trento, poneva ancora degli ostacoli, ne sapremo di più venerdì prossimo, Hindenburg dovette ricorrere al tribunale per lungo tempo prima di ottenere questo beneficio. Tale circostanze fa quindi capire come egli stesso, operando per ottenere delle aspettanze su benefici divenuti vacanti o addirittura su dignità. Solo il 7 luglio 1459 Papa Pio II diede la convalida alla costituzione della prepositura del Duomo di Trento, già concessa dal suo predecessore, confermando la soppressione del monastero di San Lorenzo. Egli conferì nuovamente di persona questa dignità al Hindenburg, che si tratteneva presso la corte papale a Mantova, e egli concesse anche il diritto ad una prebenda canonicale. Contemporaneamente veniva condonato il pagamento delle annate per questo beneficio. Mencia invece rinnovava l'obbligo del pagamento della pensione al ex abate Benedetto, disposto già nel 1456 dietro pressione del conte di Tirolo. Non sembra aver avuto i risultati sperati. Nel dicembre 1455 l'assegnazione al Hindenburg di un canonicato con prebenda nel Duomo di Regensburg Ratisbona, quasi contemporaneamente al primo conferimento della prepositura del Duomo di Trento, resosi vacante per la promozione del dottor Friedrich Sesselmann alla diocesi di Lebus nella Germania settentrionale. In ogni caso, Hindenburg non entrò a far parte dei membri del capitolo del Duomo, ciononostante questi si procurò nuovamente una dispensa per l'incompatibilità dei benefici. Durante il pontificato di Pio II, un papa, come abbiamo già visto, poco compiacente, troviamo solo un motu proprio che doveva assicurare al Hindenburg il primo canonicato vacante con prebenda che si fosse reso libero nel capitolo cattedrale di Agosta, Augsburg. Non sappiamo se in questa occasione l'esito fu quel sperato. Nel settembre 1462 seguì una nuova provisione che comprendeva la custodia di questo duomo, intanto più che uno dei suoi concorrenti era un protetto di molto influsso del duca di Baviera, Alberto IV. Il Hindenburg, comunque, prima di venire eletto vescovo di Trento, ricevette attraverso una disposizione di Papa Paolo II la ben remunerata propositura del convento della collegiata di San Pietro a Fritzlar in Hessen, che si era resa libera per la morte di Ernst von Nataka, un parente del Landgrave. Dato però che quel capitolo si era pronunciato a favore del Landgravio Hermann di Hessen, anche a questi sforzi non poté arridere un successore duraturo. Anche è da notare come questa fu l'unica concessione di benefici fatta al Hindenburg in sua terra natale in Asia. Molto più vantaggioso si delinarono le trattative per le prebende di Scholasticus nel Duomo di Breslavia, Breslau, Wroclaw, alla quale poi il Hindenburg rinunciò a favore di un scrittore apostolico, provvisto direttamente dal Papa, non senza fornire al fratello Corrado, dotato di mezzi più modesti, una pensione annuale di 40 fiorini derivate dalla rendita di quella prebenda. Rimane ancora non chiarito se Giovanni o questo fratello Corrado sia stato o meno in possesso di un canonicato di Bressanone. Nella lista dei pagamenti degli anni 1463 e 64 ai membri del capitolo appare comunque il cognome Hindabach, ma non vi è alcun nome. Fin dal viaggio di Federico III in Italia, il Doctor Decretorum Giovanni Hindabach rivestì un ruolo notevole in incarichi diplomatici grazie alla sua profonda conoscenza del settore, competenze giuridica e brillante eloquenza. Già alla fine del 1451 era tra quelle persone che in terra italiana dovevano dare il lieto annuncio dell'arrivo imminente del Rex in Imperatorem Promoventus. In adempimento a questo compiti, egli attraversò il territorio della Serenissima Repubblica di Venezia al seguito del presidente della Dieta Austriaca. Naturalmente il Hindabach fu presente il 17 marzo 1452 alle nozze del suo signore con la principessa portoghese Leonora, officiata dal Papa, come anche alla splendida incoronazione in San Pietro, avvenuta 2 giorni dopo. In questo modo egli fu testimone dell'ultima incoronazione imperiale avvenuta nella città eterna. Hindabach fu presente anche quando i 2 giovani regnanti in viaggio di nozze si recarono dal re Alfonso di Napoli, parente di Leonora, ma lascia poi l'imperatore che questioni importanti avevano richiamato a Roma per unirsi al prosieguo del viaggio nell'Italia meridionale al seguito della vivace imperatrice. L'itinerario lo portò ai primi di maggio del 1452 al famoso santuario dell'Arcangelo Michele su Monte Gargano, meta di pellegrinaggio a quel tempo molto frequentato. Da lì accompagnò Leonora fino a Venezia, dove il marito imperiale la stava attendendo. Da allora in poi il Hindabach restò al fianco dell'imperatrice come segretario di fiducia e cancelliere. La concessione della dignità di Comes Sacri Lateranensis Palatii, Aulegue Caesarei et Imperialis Consistorii deve essere considerata come compenso per questa multiforme collaborazione agli affari dell'imperatore. Nel documento a ciò relativo, presente anche in originale nell'archivio di Stato in Trento, Federico III non solo concesse con autorità imperiale il 26 febbraio 1459 a Wiener Neustadt al Consiliarius Fidelis Devotus Nostra Dilectus, questa dignità della quale discendeva il diritto di creandi notarios et spurios legitimandi. Dispose anche che questi e suoi fratelli, Enrico e Corrado, portassero in segno della loro nobiltà il blasone che era stato concesso a suo tempo allora zio Magister Dietmar Hindabach. Giovanni dovette a questa posizione di fiducia presso la corte anche la boccia dell'imperatrice. Quando quel agosto nel 1464 il principato vescovile di Bressanone divenne vacante per la morte del famoso cardinale Niccolò Cusano. In una letterina manoscritta Leonora raccontava per questa dignità il proprio cancelliere ein frommer Mann, vollgelehrt und tauglich. Alla consorte dell'arciduca Sigismondo, tuttavia anche egli, come il protetto papale in questa cosa, cardinale Francesco Gonzaga, dovette lasciare il posto a Georg Golser, eletto dal capitolo di Bressanone, dietro al quale stavano l'influenza e il potere del principe del Tirolo. In ogni caso, la conferma papale di Golser si fece attendere per anni. Al fine di non lasciar cadere incerto qual modo nell'oblio le sue aspettative di un miglioramento di status sociale, Giovanni Hinderbach lasciò infiltrarsi anche nella prefazione del trattato sull'educazione di Ennio Silvio Piccolomini accenni che ricordano sui meriti. E gli avevo fatto copiare quest'opera dietro espresso desiderio di Leonora nel palazzo romano di Francesco Todeschini Piccolomini, cardinale di Siena, benemerito della nazione tedesca e nipote di Pio II, la copia dedicata all'imperatrice, lussuosamente rifinita e oggi una dei gioielli della Österreichische Nationalbibliothek in Vienna. Non può quindi meravigliare se nuovamente Leonora intercesse per il Hinderbach quando il 20 agosto 1465 il vescovo di Trento, Giorgio Hack, morì improvvisamente a Matrei am Brenner. E nella nuova elezione, tenuta con massima urgenza, già il 30 del mese, Hinderbach fu eletto all'unanimità in absenza. Nonostante che il Papa non lasciasse nulla di intentato per assicurare al suo protetto il cardinale Gonzaga, quella sede vescovile in Riva all'Adige, o almeno per sottrarre Trento al campo d'azione dei cosiddetti concordati tedeschi vigenti sul territorio imperiale, gli sforzi dell'imperatore e l'imperatrice, del conte del Tirolo e del capitolo del Duomo di Trento, coordinati sulla persona di Hinderbach, riuscirono ad ottenere infine il rispetto da parte della curia papale, dell'elezione tenuta dei capitolari. Tuttavia solo il 12 maggio 1456 Papa Paolo II, dopo lunghe esitazioni in consistorio segreto e dietro rapporto del cardinale greco Bessarione, assegnò al seggio vescovile di Trento il prescelto da quel capitolo. Ancora una volta il Hinderbach si trovava presente in curia romana come delegato imperiale, così che poté impegnarsi subito a pagare i prescritti tributi per un ammontare di 30.000 fiorini che egli volle versare in due rate. Tuttavia protestò in forma notarile contro il testo della bolla di provisione papale, nella quale non c'era alcuna menzione del libero diritto di voto dei canonici trentini. Egli respingeva anche la proposta di una pensione da pagarsi annuale al cardinale Gonzaga, suo concorrente, nominato precedentemente dal Papa, ma alla fine uscito sconfitto. Dopo che questo venne trasferito da Bressanone alla diocesi di Mantova, Hinderbach dovette, per amor di pace e dopo lunghe trattative con i curiali, acconsentire alla proposta di compromesso. Una proposta fatta dal Papa di soddisfare il cardinale Gonzaga con un unico versamento di 1.000 ducati. Lo Papa ove lo vescovo e ha ordinato segretamente che paghi 1.000 ducati al reverendissimo Monsignor e sia assolto da questa pensione indotta. Una decisione in ogni caso ragionevole, con la quale entrambe le parti potevano salvare la faccia. Già il 20 luglio 1466 Giovanni Hinderbach aveva ricevuto la consacrazione vescovile dal vicario generale del Papa, il cosiddetto Vicarius Urbis, Domenico de Domenici, assistito da due vescovi titolari, nella chiesa dei dodici apostoli, titolo cardinalizio del cardinale greco Pesarione. Con questo egli migliorava la sua posizione dal punto di vista del diritto canonico, ma nel contempo esprimeva lo zelo pastorale con cui intendeva affrontare i suoi compiti. In seguito a ciò riuscì a ottenere dal Papa le disposizioni che almeno due terzi dei canonici trentini provenissero dal territorio dell'impero o dalle territorie della Casa d'Austria. In questo modo il Vescovato di Trento rimase vincolato, come tutti sappiamo, a questo fino al tramonto del Principato Vescovile. Non è questa l'occasione adatta per delineare le moltiplici attività del Doctor Decretorum Hinderbach come Principe Vescovo di Trento. Le relazioni di questo incontro di studio il principe fra tardo medioevo e umanesimo si occuperanno nei prossimi giorni degli aspetti più importanti di questo argomento. Daranno quindi un ritratto di un principe della Chiesa in perenne attività, che come un vescovo e come un umanista e mecenate resse per due decenni la Chiesa e il Principato di San Vigilio, imprimendovi un'impronta particolare. Dopo il fallimento del Regensburger Christentag, dieta di Ratisbona, nel 1471, egli comunque non comparve più sulla scena europea. Abbiamo motivo di credere che egli fosse ormai stanco e cadente, tanto che uno degli uditori si lamentò della sua voce appena udibile con queste parole frequentemente citate: Der Tridentinus ist ein kleines Mannli und hat gleich ein Stimm als die Glock zu Olten, die tönt als ein alter Kessel. In quel periodo vedeva crollare anche quello che era stato il sogno della sua vita, dato che l'imperatore gli aveva fatto sapere senza mezzi termini che i suoi sforzi per ottenere il cardinalato. Lo lasciavano molti contrariato e le pregavano di interromperli più presto. Hinderbach, dopo questa riprensione, cercò altre strade e da allora in poi si dedicò completamente alla sua diocesi. In questo si distinse per un eccellente lavoro di amministrazione, per l'insediamento e l'incremento degli ordini religiosi, per la convocazione di predicatori capaci e pastoralmente impegnati, come anche per lo stimolo alla stampa libraria, di cui allora anche Trento si stava dotando. Tutto ciò significò molto per il miglioramento della vita sia cittadina sia ecclesiastico-religiosa. Riprendendo gli interessi umanistici della sua giovinezza e maturità, intrattenne stretti e fruttuosi rapporti con personalità emergenti della nuova tendenza intellettuale, sia in Italia sia alla corte dell'arciduca Sigismondo. Ne sono testimonianze le composizioni d'occasione a lui dedicate, di cui un saggio sarà presentato nella mostra Pro Bibliotheca Erigenda che sarà aperto domani pomeriggio. Un posto particolare meritano senza dubbio i manoscritti musicali trentini redatti dietro suo incarico. Richiamato a Trento dai cattivi rapporti con la Repubblica di Venezia, il 21 settembre 1486 il 68enne principe vescovo, ironia della sorte, nel 20° anniversario della sua presa di possesso del vescovato trentino, fu colpito da un infarto mentre cavalcava dal Duomo al castello. Giovanni Hindebach morì in quel giorno stesso. Pochi giorni dopo, il suo corpo fu inumato nel Duomo di San Vigilio, con un lapide tardogotica splendidamente scolpita di marmo che locale conserva ancora la sua figura. Il monumento sepolcrale, oggi non più esistente, portava i versi note che li ricordavano in perfetto stile umanistico. O piace d'intumulo in da Bacchius ille Ioannes, qui princeps suius presol et urbis erat. Caesaris Arcanus consultor juris alumnus, pace sua leta, perdumuit populos. Opita restaurans, per pulcris minibus ornat, et divi templum condidit ipse petri. In quo damnatis judiis Simonis ossa, sancta locat, meritis nunc colit astra punis. Grazie. Una prolusione ad ampio respiro, come abbiamo sentito, che più che al tono festivo già ci introduce terribilmente, se vogliamo, nella fatica del lavoro minuto e nella necessità di considerare con estrema esattezza documenti, circostanze, note, eccetera. Ecco, senza dubbio ci dà un po' il sapore del lavoro che sta dietro a questo sforzo e a questo convegno. Naturalmente lo spazio concesso a questo è speciale, questo lo dico perché relatori e uditori già sanno che non potremmo concedere a tutti i temi uno spazio come quello, vero che così per saggio introduttorio e anche perché in questo pomeriggio in realtà la relazione è stata unica e forma un pezzo sé stante, d'altro canto questo privilegio al professor Sternat eravamo anche in dovere di consentirlo in quanto è stato lui l'animatore, l'ideatore di gran parte dell'impostazione di questo lavoro e lo sentiamo anche successivamente, insomma il nostro consigliere principale anche in vista dell'edizione degli atti, quindi gli siamo molto riconoscenti di questo, ma premetto che gli altri saranno costretti a compendiare molta parte del lavoro minuto, vero, per ragioni di tempo, e li prego fin d'ora di attenersi quanto possibile anche ai termini di tempo fissati. Ecco, nel suo insieme mi pare che già questa relazione ci ha presentato un quadro tutt'altro che celebrativo, tutt'altro che agiografico, proprio perché ha visto ridimensionarsi taluni giudizi che corrono quasi come obbligati nella nostra storiografia e che sono tutti da verificare. Il Hindebach umanista, molto secundum quid, abbiamo visto già adesso, e avremo occasione di verificarlo in seguito. Io spero che anche la discussione possa qui precisare molte cose pro o contro. Comunque è stato più messo un grosso punto di domanda: in che senso e fin dove? Il Hindebach, grande amico di Enea Silvio Piccolomini, altro grosso punto di domanda. Nero con tutte le delusioni che abbiamo sentito e delle quali senza dubbio bisogna tener conto. Successo politico, come a molti uomini, anche a lui è accaduto di avere una carriera molto brillante, avviata, piena di speranze, e poi invece sul momento più decisivo, sul culmine, sentirsi dire che la smetta di adoperare